Sull'etimologia della parola razza si sono scontrati fior di linguisti. Chi la voleva derivare dal latino generatio, generazione, chi dal latino ratio, nel senso di natura, qualità, poi la ben famosa ragione dell'epoca dei lumi, e chi più tardi, come Gianfranco Contini, che sparigliò il campo, sì, sparigliò il campo individuando un termine antico francese, arats, che più o meno diciamo designava l'allevamento dei cavalli. L'idea della possibilità di distinguere nell'insieme costituito dalla specie umana un sottoinsieme differenziabile per stabili caratteristiche biologiche è piuttosto recente. Uno dei primi a straparlare in proposito fu il conte Joseph Arthur de Gobineau, che nel 1853 a Parigi cominciò a dare alle stampe il suo Essai sur l'inégalité des races humaines, saggio sull'ineguaglianza delle razze umane. Fu lui a parlare dei germanici dolicocefali biondi come dell'ultimo baluardo contro la decadenza della cosiddetta civiltà occidentale, e in pratica fu lui a consegnare belle pronta una giustificazione teorica agli ideologi razzisti che avrebbero preso piede nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Che la teoria facesse acqua da tutti i pori, che al termine razza non si riuscisse ad assegnare un preciso significato, non è mai sembrato alle masse plaudenti degno di nota. Se ci sono forti interessi in ballo e la teoria non sta in piedi, peggio per la teoria. Nell'intellettuale clandestino, Robert Darton racconta come la cultura illuministica dei philosophes si sia diffusa nella Francia prerivoluzionaria in modi abbastanza tortuosi. La polizia vegliava, o meglio, vegliava con tutta quella discrezione che come istituzione universale sempiterna la caratterizza intrinsecamente. Per lo più chiudeva un occhio, qualche volta ne chiudeva due, qualche volta reprimeva e qualche altra volta spartiva le prebende relative ai reati che avrebbe dovuto reprimere. I libri rivoluzionari dei nuovi pensatori venivano stampati in Svizzera e la notte, lungo gli accidentati sentieri di montagna, sagaci contrabbandieri li trasportavano in Francia. Darton ricostruisce passo dopo passo questi percorsi, ma documenti alla mano, corrispondenze, soprattutto registri scrupolosamente annotati dai commercianti svizzeri, dimostra anche che sulla natura di questi libri è quantomeno opportuno intendersi. Dai libri mastri di un certo commerciante di Neuchâtel, per esempio, risulta che in un anno delle tante varie dotte opere dei Montesquieu, dei Voltaire, dei Diderot e Rousseau, non è stata richiesta neppure una copia, e che su un totale di 996 volumi richiesti e venduti soltanto 5 si potevano considerare trattati di filosofia politica e scritti peraltro da epigoni più o meno oggi dimenticati, mentre almeno 400 erano classificabili come opere scandalistiche, libelli satirici, e ben 206, senza ombra di dubbio, erano da classificarsi come mera pornografia. Più che la lettre sur le sourde les muette, che Diderot pubblica nel 1751, gli intellettuali francesi chiedevano altri libri altrettanto proibiti come Venere nel chiostro, ovvero La religiosa in camicia, o Le apocrife memorie di Madame la Marchesa di Pompadour. Il che, ecco, fatte le debite proporzioni, sarebbe come se gli intellettuali della sinistra nostrana si ritrovassero, più che a vedere e rivedere la corazzata Potionkin, ad approfondire l'analisi di Giovannona Coscialunga, disonorata con onore. La la notizia della settimana scorsa relativa alla nazionale femminile di calcio della Namibia, meno di 1 milione di abitanti in fondo all'Africa, viene giusto in soccorso della mia argomentazione. Giocano per le qualificazioni olimpiche con i loro confinanti del Sudafrica e perdono secco la partita di andata, 13-0. I dirigenti indagano sui motivi della scadente prestazione e scoprono che la sera prima della partita, nell'albergo che le ospitava, le calciatrici avevano visionato in camera 6 film pornografici consecutivi. Alla vigilia della partita di ritorno, dunque, i dirigenti calcistici della Namibia vegliano oculatamente affinché il fatto non si ripeta, e il giorno dopo perdono 13-1. Leggo Padania, Lega Nord, anno sesto, numero 12 di quest'anno di grazia 2003. Constato che nel programma politico del partito figura la lotta alla pornografia libera. Ma non faccio in tempo a compiacermene che ne leggo la curiosa motivazione. La Lega Nord sarebbe contraria alla pornografia perché questa avrebbe lo scopo di distruggere la famiglia e di spingere verso la società multirazziale. D'accordo, ci risiamo con la razza e ciò è grave. Evidentemente la specie umana non ha ancora pagato abbastanza. La lezione di ieri è come se non l'avessimo mai sentita. E mi rendo conto pure di uno stravolgente rapporto di causa e di effetto. Mentre il dirigente calcistico della Namibia si affida al consolidato paradigma che vuole la pornografia connessa alla debosha fisica e morale, più fisica che morale, perché se la sua squadra avesse vinto avrebbe comunque esaltato le virtù della pornografia, la Lega Nord affina la sua analisi fino a considerarla una sorta di cavallo di Troia in grazia del quale un'idea come quella del vivere pacificamente fra cittadini del mondo, quell'idea che loro, con una mancanza di cautela pari solo all'ignorante protervia, chiamano società multirazziale, viene inoculata nelle giunzioni ideologiche delle famiglie italiane come una biologica bomba a orologeria che prima o poi le distruggerà. E così come il nazionalfascismo ipostatizzò un mostro ebraico cui far risalire tutte le colpe, così la Lega Nord riconduce che sia, ma proprio tutto ciò che trova sul mercato ideologico, alle proprie necessità ideologiche. È pur vero che, come i tanti che poi l'hanno imitato, lo stesso Diderot cercherà successo popolare scrivendo I gioielli indiscreti, opera che nulla ha a che fare con l'oreficeria e sulla cui natura metaforica non indulgerò. Ma ciò non significa che la rivoluzione francese sia l'esito di una massiccia diffusione di stampa pornografica. Con buona pace di Bossi, significa soltanto che anche gli intellettuali, o meglio, che soprattutto gli intellettuali, hanno qualche piccolo difetto non trascurabile e che le rivoluzioni riescono non grazie a loro, ma nonostante loro. Che sono gavi.